La pastorella mia, senza altra compagnia, soletta al suo giardino, per cogliere Petrosino se n'andava. La non parlava, mi si sforzava di mostrarmi con la mano, guarda la villa, un bel villano, che io me ne paro poco lontano, venirai pian pian. Oh, bel villano, bel villano. N'andava continuosa, immesta e vergognosa, cantando una canzone, tu porti la corona e poi riva. Io la sentivo, che chi diceva, sotto voce piano piano, fuor della villa un bel villano, che a me ne paro poco lontano, venirai pian pian. Oh, bel villano, bel villano. La pastorella mia, senza altra compagnia, soletta al suo giardino, per coglie Petrosino se n'andava. La non parlava, mi si sforzava di mostrarmi con la mano, fuor della villa, un bel villano, che io me ne vado poco lontano, venirai pian pian. Oh,